Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, di Federico Pedrocchi e Simona Regina. Questo è Mebius, ciao Simona. Ciao Federico, buonasera a tutti e tutte. Tutto bene? Bene, grazie, tu? Sì, bene. Allora, da che cosa partiamo? Partiamo dalla vita sintetica, quella creata nei laboratori di ricerca. E poi in questa puntata vi parleremo anche di fuochi d'artificio, della chimica dei fuochi d'artificio, che è molto più sorprendente di quanto vi aspettiate probabilmente. E poi i crash test, cioè quei test che servono a capire quanto è robusta una macchina. Anche qui sono entrate delle grandissime novità tecnologiche. E andremo a conoscere un sito archeologico sommerso nel canale di Sicilia. Non resta che partire. Vita sintetica, breve storia degli organismi che non esistono in natura. Con questo libro la giornalista scientifica, collega dell'ANSA Scienza, Enrica Battifoglia, è tornata in libreria. Enrica, che cos'è la vita sintetica? La vita sintetica è un campo di ricerca completamente nuovo e che si basa sulla possibilità di tradurre il codice della vita in informazione. E questa informazione può essere letta e può essere manipolata in qualche modo, nel senso che per esempio nel 2016 è stata ottenuta una cellula con un corredo genetico minimo, con lo stretto indispensabile alla sopravvivenza. Ecco, questa è stata una prova di principio, una specie di debutto ufficiale della vita sintetica, che da questa cellula minima potrebbe prendere il via per ottenere in futuro batteri capaci di aiutare l'ambiente decontaminando acqua e suolo, oppure batteri capaci di aiutare la medicina, per esempio aiutando a sviluppare nuovi farmaci. Insomma, tra incubatori, centrifughe, pipette, ma soprattutto con l'aiuto di supercomputer, sono nate le prime forme di vita sintetica nei laboratori di ricerca. Possiamo dire che la realtà ha superato la fantasia in questo caso? Ma direi proprio di sì. E il bello della ricerca scientifica è proprio questo. Succede spesso che la realtà superi la fantasia. E già nell'Ottocento, ai tempi di Mary Shelley, si pensava che appunto era nata l'idea di Frankenstein come di un essere nato al confine tra il mondo vivente e il mondo inanimato. Oggi si continua a lavorare su questa suggestione, ma non vengono fuori dei mostri per fortuna, ma microorganismi che potranno essere molto utili alla società. Craig Venter è il pioniere in questo campo di ricerca, uno dei protagonisti indiscussi di cui nel libro racconti le imprese, ed emerge il ritratto di uno scienziato particolare, uno scienziato imprenditore. È sicuramente uno scienziato imprenditore, fin dal principio è stato insofferente alle regole, per esempio quelle della burocrazia dei grandi istituti di ricerca, anche se la sua carriera è cominciata proprio da lì, dai National Institutes of Health degli Stati Uniti, ma molto presto si è voluto staccare da questo ambiente accademico per fondare una sua società privata. Quindi questo ha voluto coniugare fin da subito le ricerche più avanzate in campo biologico con un'attività privata che ha fatto molto molto discutere. E la Celera è stata la sua piccola azienda che è riuscita a battere il colosso del progetto internazionale per il genoma umano. Lo ha battuto sul tempo nel 2000 preparando la mappa del DNA dell'uomo. Già da allora tante paure però si sono messe un po' a tacere, o comunque sono andate in secondo piano, perché poi la mappa del DNA è stata resa pubblica, pubblicamente accessibile, gratuitamente accessibile a tutti i ricercatori del mondo, sia dal progetto internazionale sia dall'azienda di Venter, e da allora i risultati delle sue ricerche sono pubblicamente accessibili. A proposito del fatto che nei laboratori di ricerca vengano create forme di vita sintetica, si sente dire così: gli scienziati giocano a fare Dio. Sì, è stato detto, ma il mondo della ricerca ha risposto fin da subito a questa provocazione. e lo ha risposto nei fatti, perché fin dalla metà degli anni 70, quindi quando stava nascendo la rivoluzione delle biotecnologie, i ricercatori hanno sentito l'esigenza di riunirsi, di confrontarsi, proprio per parlare dei possibili sviluppi di queste loro ricerche. E questo è un atto di responsabilità che troviamo moltissime volte nella storia della scienza, nella storia della biologia contemporanea, compresa quella sulla vita sintetica. Vaccini, enzimi e biosensori sognando Marte. Questo è il titolo di un capitolo del libro. Ecco, che cosa c'entra Marte con gli studi fatti sulla Terra per creare forme di vita sintetica? Marte è lo stesso Craig Venter a citarlo. E quando parla di teletrasporto biologico, che cosa significa? E se noi interpretiamo il codice genetico come informazione, questo vuol dire che l'informazione può essere trasmessa via internet, per esempio. E allora, se un domani dovessero essere trovate delle forme di vita molto elementari su Marte, fossili di microrganismi vissuti in un lontano passato, forse chissà nel sottosuolo potrebbero esserci invece dei microrganismi ancora vivi, questo nessuno lo sa, qualsiasi cosa venga trovato, inviando su Marte insieme ai veicoli spaziali un sequenziatore di DNA di dimensioni chiaramente molto piccole, sarebbe possibile avere subito la mappa genetica di un microorganismo alieno e inviarla sulla Terra senza correre il rischio di pericolosi viaggi spaziali con alieno a bordo. Ma al di là di queste suggestioni della fantascienza, questo già può succedere sulla Terra se pensiamo alla scoperta di un virus potenzialmente molto pericoloso, senza la necessità di trasportarlo e senza i tempi lunghi per il trasporto, potrebbe essere sequenziato il suo materiale genetico e inviato nel laboratorio di ricerca in grado di analizzarlo per trovare un vaccino. Le prime forme di vita sintetica che sono state create nei laboratori rappresentano dei traguardi importanti, ma forse sono soprattutto e vanno considerati come tale gli step iniziali di nuovi scenari che si aprono nella ricerca. Sì, è assolutamente un campo vastissimo quello che si sta aprendo. Noi potremmo fare tante previsioni, ma sono sicura che quello che accadrà sarà al di là di tutto quello che oggi noi possiamo immaginare. Quello su cui si sta lavorando adesso sono applicazioni in campo ambientale e in campo biomedico, ma sono soltanto i primissimi passi. Grazie Enrica Battifoglia. Grazie a voi. In questo 26 agosto, durante il quale l'estate va scemando, come saranno le cose sulle strade? Ce lo dico. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presento. Qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti e le verità di Olimpia, la città dello sport, continuano a farvi compagnia anche durante l'estate, in un nuovo orario. Sono Dario Ricci e vi aspetto ogni domenica alle 16.30 a Olimpia, naturalmente qui su Radio 24. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Federico, ne abbiamo visto e sono sicura anche chi è in ascolto di tutti i colori nel corso di queste giornate. Mi riferisco ai fuochi d'artificio, perché è tipico accompagnare le feste con, bing, boom, bam, con appunto con gli spettacoli pirotecnici. Imitare il razzo che va su e poi esplode, ma non mi viene più da qualche anno. È una roba tipica mediterranea europea, no? Spagna, Francia, però non so, forse c'è anche i fuochi d'artificio ci sono tutti in modo. I cinesi sono notoriamente tra i più bravi. Noi qua adesso che cosa vediamo però? Noi vogliamo cercare di capire la scienza che c'è dietro i fuochi di artificio, e la scienza che c'è dietro i fuochi d'artificio altro non è che la chimica. E ne parliamo con Valentina Domenici, professoressa di chimica fisica all'Università di Pisa. Buonasera. Buonasera. E dicevo bene, insomma, dietro i fuochi di artificio, dietro uno spettacolo pirotecnico, c'è tanta chimica, una chimica anche abbastanza complessa. Sì, sì, è una chimica complessa perché entrano in gioco moltissime sostanze che sono alla base dei rumori e soprattutto dei colori che si sviluppano con i fuochi di artificio. Ecco, perché partendo proprio dall'inizio, dall'esplosione, perché l'esplosione dei fuochi d'artificio è un ottimo esempio di reazioni chimiche? Allora, quella dei fuochi d'artificio è una reazione esplosiva di tipo combustione. Le combustioni quindi sono degli esempi tipici di reazioni chimiche che si fanno anche, che si studiano anche a scuola. Questa però è un po' particolare perché di solito le combustioni hanno come comburente l'ossigeno dell'aria. E invece nel caso delle esplosioni che si osservano con i fuochi di artificio, l'ossigeno viene da un'altra sostanza che è il nitrato di potassio, che è un elemento fondamentale di quella che si chiama proprio la polvere nera che è alla base del fenomeno dell'esplosione dei fuochi d'artificio. E che a quanto pare è stata inventata proprio dai cinesi, quindi è il nitrato che alimenta la combustione e non l'ossigeno. Ma perché non l'ossigeno? Perché è contenuto dentro un involucro chiuso dove non entra aria? No, perché il nitrato di potassio contiene ossigeno, è una sostanza che è molto ricca di ossigeno. La polvere nera è fatta al 70% da questo nitrato di potassio. Per la verità oggi le polveri che vengono utilizzate per fare fuochi di artificio possono contenere anche altri comburenti al posto del nitrato di potassio, ci possono essere dei clorati o dei perclorati, che sono sostanze molto molto ricche di ossigeno. Senta, lei prima ha detto una cosa che forse a noi tutti spettatori e basta sfugge. Nell'arte del fuoco d'artificio e quindi nella sua esplosione ovviamente ci sono tutti i colori, i tracciamenti, ma ci sono anche i rumori, i botti, nel senso che sono progettati, non sono un risultato ovvio, un di cui dell'esplosione. No, assolutamente. Direi che nella complessità, diciamo, dei fuochi di artificio ci sono anche delle sostanze che vengono aggiunte proprio per fare dei rumori particolari, come i fischi. Ad esempio, in passato si usava l'acido picrico, che però oggi, siccome è una sostanza esplosiva anche molto pericolosa, viene sostituito piuttosto da altre sostanze come l'acido gallico oppure dei benzoati, e sono delle sostanze che quando bruciano all'interno dei fuochi di artificio sviluppano anche questi rumori, questi fischi che sono abbastanza caratteristici dei fuochi. La spettacolarità dei fuochi d'artificio però forse sta proprio in questa esplosione di luci, di colori che ad un certo punto la fanno da padrone in cielo. Ecco, come si ottengono colori diversi? Allora, i colori derivano proprio dalla natura chimica dei composti che si trovano all'interno dei fuochi d'artificio, e ogni elemento chimico ha un suo colore, tant'è che esiste un saggio, un'analisi che viene fatta in chimica che si chiama saggio alla fiamma, che serve proprio per riconoscere i vari elementi chimici, quindi per sapere se in un composto è presente per esempio il sodio, il bario o il calcio, si fa questo test e si osserva il colore. Quindi significa che il colore è dovuto proprio alla presenza di elementi chimici particolari. Per esempio, se voglio ottenere il rosso, cosa deve esserci dentro il mio fuoco, il mio botto, insomma? Allora, per il rosso si utilizza, tipicamente si utilizzano dei sali di stronzio, possono essere nitrati, carbonati, ossalati e hanno proprio questa caratteristica, perché il colore rosso che è distintivo di questo elemento si dice è il rosso scarlatto, quindi è veramente molto brillante. Il blu? Allora, il blu è un po' difficile, è uno di quelli più difficili da fare e di solito si utilizzano dei sali di rame. Però lei così ci sta anche dicendo che ci sono dei colori che non si riescono a ottenere in cielo? Allora, ci sono dei colori che si ottengono solo se si mescolano opportunamente dei sali. Un po' come quando si vogliono ottenere i colori a partire dai colori primari. Ah, quindi proprio una mescolazione come si fa con le tempere. Però io adesso vorrei sapere, ma per fare uno di questi razzi con dentro tutti i colori e tutti i bottini, uno diverso dall'altro, perché è vero che c'è il fischio, poi c'è il boom quando si apre, poi c'è anche quella cosa magnifica che sono... tutti quei rumori tanti come se fossero una mitragliata, no? Dovreste vedere come gesticola Federico in questo momento per, insomma, per farci immaginare di avere di fronte davanti agli occhi proprio un fuoco d'artificio. Sono un grande imitatore con le mani. Però per fare una cosa di questo genere, intanto cos'è? Adesso dimentichiamo quei matti che fanno le robe nei seminterrati, ma... è un lavoro artigianale, sembrerebbe da tutto quello che lei ci dice che sia un lavoro lunghissimo per fare un solo razzo. Sì, in effetti c'è una tecnica che è proprio la pirotecnica, che si occupa proprio di studiare il modo con cui devono essere fabbricati per ottenere dei risultati, per esempio delle forme particolari o la successione dei suoni. Quindi dietro c'è una scienza molto, molto complessa e tra l'altro dobbiamo comunque sottolineare il fatto che trattandosi di sostanze esplosive pericolose c'è anche tutto un aspetto normativo per cui non tutti possono mettersi a fare queste cose, ma ci vogliono delle abilità particolari, una tecnica particolare. Senta Valentina Domenici, dicevamo, lei è docente di chimica fisica all'Università di Pisa, si occupa in particolar modo di spettroscopia. È vero che è talmente affascinante e complessa la chimica che c'è dietro, che i fuochi d'artificio vengono addirittura usati come strumento didattico, sicuramente come strumento di divulgazione? Sì, in effetti la chimica dei fuochi d'artificio è un tema che affascina e attrae e può anche essere appunto uno stimolo per introdurre anche gli studenti ad alcuni concetti piuttosto complessi come quello della spettroscopia atomica. Infatti alla base di questi meravigliosi colori c'è un fenomeno piuttosto complesso da descrivere che riguarda l'assorbimento di energia da parte degli elementi, quindi in particolare degli ioni e la loro successiva emissione di luce. E quindi l'emissione della luce di determinate lunghezze d'onda è proprio una caratteristica che si può associare alla natura degli elementi, quindi volendo spiegarlo nel dettaglio uno trova molti spunti anche per approfondimenti didattici. Sì, lo spettroscopio è questo strumento che osservando della luce ci dice che cosa la genera, infatti si possono guardare anche le stelle lontane, no? E capire che cosa c'è, stelle o pianeti, cosa c'è nella loro atmosfera. Con i fuochi d'artificio si può iniziare qui sulla Terra in modo più semplice. Ma questo vuol dire che portate gli studenti con uno spettroscopio a a vedere, a catturare la luce dei fuochi d'artificio? Beh, quello è più complicato da fare nella realtà, però ad esempio, come dicevo prima, il saggio alla fiamma per quello la situazione dei composti, oppure delle piccole reazioni fatte in laboratorio in cui si ha emissione di luce, possono essere un esempio per introdurre la spettroscopia di emissione e anche la spettroscopia di assorbimento. Quindi sono comunque temi molto, molto legati, su cui si possono fare anche delle piccole esperienze laboratoriali volendo. Cioè, costruite dei piccoli fuochi d'artificio in laboratorio, no? Scherziamo. No. Questo no. Però scaldiamo, per esempio, dei sali e facendo assorbire quindi energia a questi sali, possiamo poi osservare la luce che viene, fuori. Quindi dal colore. Il colore può essere poi registrato attraverso uno strumento, appunto uno spettroscopio, per andare a vedere le cosiddette righe spettrali, che sono, diciamo, le caratteristiche, un po' le impronte digitali degli elementi chimici. Valentina Domenici, ma lei quando assiste ad uno spettacolo pirotecnico a cosa pensa? Penso un po' anche alla tradizione che c'è dietro e al fascino. Sicuramente il primo pensiero è questo. Si dimentica della chimica. Il movimento emotivo. Dopodiché penso anche alla chimica e al fascino di queste reazioni, talvolta anche molto complicate, che sono alla base di questo bellissimo fenomeno. E grazie per averle condivise con noi. Buona serata. Anche a voi. Buona serata. Nell'ultimo anno abbiamo prodotto un numero di dati superiore a quello generato nell'intera storia dell'umanità. Dati che sono il nutrimento dell'intelligenza artificiale, delle macchine di propaganda, delle strategie commerciali e della guerra digitale. Dati che sono la vera ricchezza, il nuovo petrolio dei grandi colossi del digitale. Codice Sorgente indaga e si interroga su come vengono utilizzati, quanto valgono e di chi sono. Codice Sorgente, come la tecnologia sta disegnando il nostro futuro, di Enrico Pagliarini e Simone Spezia. Fino al 3 settembre, il sabato alle 16 e la domenica alle 10, su Radio 24. Fiera del Levante, riscaldamento a legna e pellet, pftecnologie.it. Vi presenta... Se pensate che una volta caduta Raqqa ci potremmo dimenticare dell'ISIS... Se pensate che il pop coreano dei BTS non invaderà mai le discoteche europee. Se pensate che 20 milioni di persone a rischio carestie in Somalia, Sud Sudan, Yemen e Nigeria non ci riguardino. This is just one of many camps for displaced people in Somaliland. They get some water from aid agencies. E se pensate che le battaglie per i diritti di gay e lesbiche in Russia siano affar loro, questo programma non fa per voi. Se invece pensate anche voi che il mondo è troppo piccolo per pensarlo ancora grande, vi aspetto qui, a Nessun Luogo è Lontano. Giornalisti, fotografi, politici, attivisti e analisti, i migliori e i più preparati, vi racconteranno la grande attualità internazionale e i temi del nostro tempo. Ogni giorno vi racconteremo come un battito d'ali dall'altra parte del mondo può scatenare tempeste anche su di noi. Sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto a Nessun Luogo è Lontano. Da lunedì al venerdì alle 16 e tutte le domeniche alle 19:10, qui su Radio 24. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Federico, questa sera torniamo in Sicilia, torniamo nel canale di Sicilia, ci facciamo accompagnare lì da Emanuele Lodolo, geofisico dell'OGS, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste, perché lì sono emerse... O meglio, voi vi siete immersi, mi riferisco a Emanuele Lodolo che è in collegamento telefonico con noi, buonasera, e avete scoperto tracce di antichi insediamenti umani. Quindi parliamo di un sito archeologico sommerso che risale, Emanuele Lodolo, a quanti anni fa? Noi dagli studi che abbiamo condotto abbiamo tentato di ricostruirne, diciamo così, la storia, e lo poniamo intorno ai 9-10 mila anni fa, quindi siamo all'interno del Mesolitico. Mesolitico. Sì. se lo rapportiamo insomma alla preistoria, possiamo dire che è un sito, uno tra i più antichi del Mediterraneo, che si dal punto di vista della sua età può essere paragonato a quello più antico conosciuto, sommerso oggi, che è quello che è stato trovato alcuni anni fa al largo delle coste di Israele, che appunto è datato intorno ai 9.500-9.000 anni fa. Senta, dove siamo esattamente? Ci troviamo, diciamo, a metà strada tra le coste della Sicilia meridionale e l'isola di Pantelleria. Quindi ci troviamo in un banco sommerso in cui la profondità d'acqua è intorno ai 40 metri, quindi ci troviamo a circa 25 miglia a sud di Mazara del Vallo, ed è uno dei tanti banchi che costituiscono un'area particolarmente, diciamo, ricca di questi banchi sommersi, che si chiama Plateau Aventura, che è un'area abbastanza di acqua bassa se lo rapportiamo al canale di Sicilia, dove appunto insieme a questo banco sommerso abbiamo trovato altri elementi di questo tipo che fino a circa, diciamo, 9.000-8.000 anni fa costituivano quasi una sorta di arcipelago, quindi una serie di isole interposte tra la Sicilia appunto e Pantelleria. Cioè soltanto, perché quando parliamo poi di tempi geologici bisogna usare questi avverbi, soltanto 10.000 anni fa lì c'erano delle isole che adesso sono a 40 metri di profondità, sì, mentre invece erano abitate, cioè dalla Sicilia a Pantelleria c'erano un arcipelago, lei ha detto. Beh, diciamo sì, c'era una sorta di arcipelago, se pensiamo che addirittura 18-20 mila anni fa, quindi un po' più indietro nel tempo, addirittura tutta quest'area era emersa, quindi sostanzialmente la Sicilia era più grande e quest'area costituiva quasi una sorta di penisola che si protendeva verso sud quasi fino ad arrivare alle coste della Tunisia. Ecco. Quindi parliamo di un'area estremamente vasta che non era coperta dal mare come invece è oggi. Ecco, abbiamo detto appunto che in questa zona voi avete scoperto un sito archeologico sommerso, ma di fatto che cosa è venuto a galla? Cosa c'è? Beh, di fatto, allora, noi all'inizio abbiamo fatto dei rilievi batimetrici ad altissima risoluzione, quindi per ricostruire come è fatto il fondo del mare, qual è la morfologia. E notando, studiando queste carte batimetriche che abbiamo realizzato, si è visto che c'erano degli elementi diciamo morfologici abbastanza strani, abbastanza particolari, difficilmente riconducibili ad attività, diciamo, naturali, a fenomeni naturali. Per questo abbiamo voluto approfondire questi studi mandando, diciamo, i sub a esplorare un po' queste aree, e quello che ci hanno rivelato i filmati e anche i campioni che abbiamo preso sono appunto delle strutture abbastanza particolari, tra le quali appunto a 40 metri di profondità c'è questo monolite di 12 metri di lunghezza adagiato sul fondo, che presenta delle caratteristiche abbastanza particolari, tipo un foro, la sua parte sommitale, molto regolare, insieme a questo altri fori che, diciamo, sono posti nei lati di questo monolite. E non solo questo, ci sono altri elementi, diciamo, che abbiamo trovato, che abbiamo campionato e filmato, che sono nella loro, diciamo, rapportati a quanto abbiamo visto, possono essere ricondotti a fenomeni che non siano naturali, bensì a possibile attività umana. Quindi sono strutture che possono essere legate a costruzioni operate dall'uomo. Ecco, ma è possibile fare un'ipotesi? Forse era un luogo di ritualità? Per esempio, queste ipotesi, si possono fare una serie di ipotesi per quanto riguarda, diciamo, l'uso, le finalità, eccetera, perché ovviamente gli elementi che abbiamo in mano sono estremamente scarsi, e poi, diciamo, in ultima analisi stiamo facendo sostanzialmente delle ipotesi, perché di fatto tracce di resti umani non ne abbiamo trovati fino adesso. E c'è da tenere conto anche di una cosa, che il sito è stato visionato e ispezionato dai sub soltanto per il 30% della sua totalità, quindi abbiamo ancora dei margini di incertezza per quanto riguarda l'effettivo uso e utilizzo di questo sito. Certo è che se pensiamo alla sua collocazione geografica, quindi a metà strada tra il mondo europeo e il mondo africano e è collocato inoltre lungo la direttrice est-ovest del Mediterraneo, senza dubbio questo è un'area che ragionevolmente si può pensare molto, molto utile e molto, diciamo, importante dal punto di vista dei traffici, quindi è ragionevole pensare che fossero queste isole che una volta costituivano appunto l'arcipelago, che fossero abitate, perché era un'area molto privilegiata dal punto di vista degli scambi, del commercio, dell'interazione fra i popoli che vivevano sulle sponde. Ecco, Emanuele Lodolo, siccome appunto diceva che insomma ci sono ancora tante domande aperte a cui bisogna rispondere, è ragionevole sostenere che l'archeologia moderna quindi deve indagare proprio quello che c'è nei fondali, perché un tempo quei fondali ospitavano insediamenti umani? Certo, questa è la sfida futura dell'archeologia, cioè tutto ciò, la maggior parte di ciò che conosciamo, che è stato ricostruito sulla storia dell'uomo, la storia più antica, la preistoria, si basa quasi essenzialmente su diciamo siti posti a terra. Quindi la storia dell'uomo, alla storia dell'uomo manca un capitolo molto, molto importante, molto lungo in termini temporali, che è quello di coloro i quali vivevano nelle aree che una volta erano emerse. Che sono molte le aree, perché se pensiamo solo a un numero, negli ultimi 18-17 mila anni il mare si è alzato di circa 120 metri, quindi ha coperto tantissime aree che adesso ovviamente si trovano sott'acqua e che ragionevolmente possiamo pensare fossero state occupate, perché se oggi, come oggi, diciamo il 70% della popolazione vive lungo le zone costiere, è anche ragionevole pensare che in passato fosse lo stesso, perché è più comodo, no? È più facile vivere in un'area costiera perché ha la possibilità di ovviamente di pescare, di interagire con le popolazioni vicine, quindi è più facile dal punto di vista anche logistico, quindi in passato probabilmente è successo lo stesso. Beh, quindi poi il Mediterraneo è il mare della navigazione. È, no? Il mare della navigazione, il mare dove si sono sviluppate le grandi civiltà, il mare dove ci sono state le grandi interazioni tra i popoli, il mare dove è successo di tutto. Di tutto, certo. Quindi molte aree di mare basso, come sono il Mediterraneo, pensiamo per esempio all'Adriatico, no? L'Adriatico, dalle sue sponde, insomma, si sono succeduti vari traffici sin dalle epoche più remote. Pensiamo solo che il delta del Po, quando il livello dell'acqua era 120 metri più basso, si trovava addirittura al lago di Pescara, quindi tutta quest'area che adesso ovviamente è coperta dal mare molto probabilmente ospitava delle comunità, dei villaggi, e quindi tutto ciò che c'è là sotto ci può dire qualcosa per quanto riguarda come sono iniziati certo, questi scambi, queste interazioni, eccetera. Dobbiamo dire una cosa, che queste ricerche non alterano assolutamente, diciamo, il luogo, perché sì, sono fatte, diciamo così, con strumenti che non toccano gli oggetti e quindi noi quello che ricostruiamo sono morfologia, la batimetria delle carte, quindi ci fanno vedere la situazione, prendiamo dei video, quindi non alteriamo assolutamente. Certamente. E questo è naturale. Senta, Emanuele Lodolo, però a che punto siamo con la ricerca? Nel senso, stanno andando avanti le indagini nel canale di Sicilia per cercare di fare ulteriore chiarezza su questi insediamenti, su queste tracce di insediamenti umani che sono state portate alla luce un paio di anni fa, se non sbaglio? Diciamo che in questo momento siamo in una fase un po' così di stallo, nel senso che ovviamente per fare il salto di qualità per questo tipo di ricerche c'è bisogno di uno sforzo finanziario abbastanza importante, perché bisognerebbe mettere in campo strumentazione magari più sofisticata e soprattutto un'indagine molto più approfondita, che implica ovviamente uno sforzo finanziario abbastanza importante. E immagino anche competenze multidisciplinari. ovviamente con competenze multidisciplinari, anche tenendo conto che, se facciamo un paragone, qui ci troviamo in un sito che è a 40 metri di profondità, la logistica è molto più, diciamo così, importante e complicata. Certamente anche in questi casi c'è bisogno di trovare dei finanziamenti, diciamo, che siano compatibili col tipo di studi che vogliamo realizzare. È una cosa che, diciamo così, si sviluppa in un arco di tempo un po' più ampio, però ci auguriamo che, insomma, queste ricerche possano andare avanti, perché sono molti ancora i quesiti a cui tentiamo di rispondere. E allora, Emanuele Lodolo, in bocca al lupo, buona ricerca, ma anche buona estate. Crepi il lupo, grazie a voi e arrivederci. Arrivederci, Lodolo. Dopo una mezz'ora di silenzio ritornano quelli del traffico. Avrei voglia di un giallo, anzi, di un thriller da paura. Io di una commedia, qualcosa di leggero, che faccia ridere. Io vorrei immergermi in un romanzo introspettivo e disturbante. Sono Alessandra Tedesco, il cacciatore di libri, e quest'estate vi farò compagnia con i consigli di lettura. Vi aspetto ogni sabato alle 6.30 e alle 22, la domenica alle 16.15 e alle 20.45, dal lunedì al venerdì edizione Flash alle 13.10. Non avete preso appunti? Niente paura. Trovate tutto, compreso il podcast, su radio24.it. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. E adesso Campus Party, un appuntamento dedicato alle nuove tecnologie, un festival di innovazione e creatività. Federico ha intervistato Simonetta Boria, matematica all'Università di Camerino. Simonetta Boria fa ricerca sull'automotive, allora sentite cosa dice sulla sicurezza e sui test che oggi si fanno per incrementarla. In un vecchio film francese umoristico c'era una scena nella quale, credo fosse Louis de Funès, a bordo di una due cavalli aveva un incidente e la macchina si smontava completamente, lui restava sull'asfalto seduto. Allora questo, probabilmente ancora oggi, è visto come una debolezza dell'automobile, no? In realtà il fatto che l'energia da incidente significhi che la macchina si smonta, che viene dispersa nello smontarsi, è un principio giusto, no? Sì, durante la progettazione delle vetture bisogna pensare all'aspetto sicurezza passiva, quindi che cosa succede alla mia vettura in caso di incidente stradale. Ecco perché quindi durante la progettazione bisogna pensare prima di tutto a realizzare una cellula di sopravvivenza per quelli che sono gli occupanti, in modo tale che in fase di incidente tutta l'energia venga dispersa nell'intorno dell'occupante ma non sull'occupante stesso. Quindi sono necessarie andare a progettare strutture nella parte anteriore, nella parte posteriore e nella parte laterale che siano in grado di assorbire energia cinetica mediante deformazione. Quindi certo in questo film c'era una parte giusta, la macchina che assorbe energia, invece chi è dentro dovrebbe essere protetto, perché se no diventa come un pezzo della macchina che sballonzola a destra e a sinistra. Quello che bisogna superare è il fatto che avere invece una bella macchina robusta con delle strutture rigide, un bel motorone davanti lungo, non protegge assolutamente, perché no, nel caso di un incidente, se quello è rigido si proietta tutto. Sì, assolutamente, cioè pensare una macchina robusta, rigida va bene, ma fino a un certo punto, perché bisogna pensare appunto che specie nell'anteriore, quindi durante impatto frontale, ci siano strutture che siano deformabili, quindi lascino la fase elastica, entrino in fase plastica nel caso in cui siano realizzate con materiali metallici convenzionali, oppure in ambito fragile nel caso in cui parliamo di materiali innovativi compositi. I materiali sui quali si lavora adesso alla frontiera per questa sicurezza sono compositi, c'è una raffinata miscela di materiali. Ci può dire quali sono, qual è la logica di assemblarne tanti diversi? Allora, i materiali compositi sicuramente hanno aperto da alcuni anni una nuova frontiera. E per quanto riguarda i primi materiali compositi che sono entrati sul mercato, parliamo di fibra di vetro e resina epossidica. Attualmente le monoscocca di Formula 1 sono realizzate con fibre di carbonio e Kevlar e immerse in una resina epossidica, ma l'obiettivo, proprio per andare a rispondere a quelle che sono le esigenze delle normative europee, è quello di cercare di dare all'auto l'85% della riciclabilità al fine vita. Quindi sicuramente utilizzare materiali compositi va bene, ma vanno ripensati e rimodulati, perché materiali come fibra di carbonio o fibra di vetro non sono riciclabili, specie con resina epossidica. Quindi ecco, bisogna andare nella direzione di fibre naturali, quindi parliamo di canapa, di juta, quindi configurazioni completamente diverse, immerse in una resina termoplastica. Quindi nel momento in cui la riscaldiamo e la frantumiamo, siamo in grado di riprodurre un materiale composito con prestazioni diverse o prestazioni analoghe a seconda della lavorazione. Ma il fatto che il materiale sia composito è perché in quella frazione in cui avviene l'incidente di tempo risponde, parti diverse del materiale rispondono diversamente alla sollecitazione energetica? No, si parla di materiale composito proprio perché è composto da due materiali di natura diversa. Quindi parliamo di una fibra che è sostanzialmente alle dimensioni di un capello, che chiaramente è intrecciata tra loro, fibre intrecciate tra loro anche in configurazione tessuta, immerse in una resina. Però i materiali compositi nel momento dell'impatto presentano deformazioni completamente diverse rispetto ai materiali tradizionali, come possono essere l'acciaio, come può essere l'alluminio. Non abbiamo più progressione controllata plastica, quindi formazione di cerniere plastiche nel tempo e quindi una serie di picchi in termini di decelerazione nel tempo, ma abbiamo una rottura fragile, quindi sostanzialmente si polverizza il nostro materiale composito. E la polverizzazione di questo materiale composito comporta una deformazione in termini di accelerazione del tempo molto più smooth, molto più piatta, e quindi evita i grossi picchi decelerativi che sono quelli che possono provocare danni dal punto di vista cerebrale al corpo umano. Quindi torniamo all'inizio dell'intervista, il materiale composito si disfa e dissipa più facilmente, nel materiale rigido invece vi presenta dei picchi e quindi delle decelerazioni fortissime che certo per esempio per gli organi interni sappiamo essere drammatiche. Altra peculiarità dei materiali compositi fondamentale è quello della leggerezza, quindi non soltanto sono più resistenti e si comportano meglio all'impatto, ma sono anche molto più leggeri dei materiali convenzionali. Quindi il nostro obiettivo, l'obiettivo di chi costruisce automotive, è quello di realizzare strutture che siano leggere, quindi consumano poco e nello stesso tempo però siano resistenti e rigide su strada. Fondamentali sono i crash test, cioè situazioni molto strutturate in laboratori e anche costose che testano scontri frontali, scontri laterali. C'è però anche quel grande settore della modellizzazione che oggi si usa in tante situazioni, per esempio per tutto ciò che riguarda i flussi d'aria, adesso le camere a vento che si usavano una volta, no? Con grandi ventilatori tendono a scomparire e si fanno simulazioni al computer che sulla base dell'esperienza ovviamente sono diventate molto precise. Mi sembra di capire che invece nel vostro tipo di ricerche la modellizzazione la usate, ma il crash test ci vuole. Assolutamente sì, i crash test sono l'unico banco di prova in grado di vedere se effettivamente le nostre strutture progettate al computer, siano in grado di sottostare ai carichi, proprio perché specie per strutture complesse, quindi quando parliamo dell'intera vettura, sono migliaia, centinaia di pezzi che vengono associati tra loro, quindi è molto probabile che in fase di produzione siano nati dei difetti, sia dal punto di vista strutturale, sia dal punto di vista del materiale. Quei difetti chiaramente non sono prevedibili in ambito simulativo al computer. Quindi fondamentale è fare una prova sperimentale. Quindi vedete sempre l'abbinata anche in un futuro, che possa la modellizzazione, c'è troppa complessità e troppi particolari nel fenomeno fisico che non consentono. Però nella sua presentazione ho visto che si fanno test con scontri a velocità sui 60 km/h, 80 km/h, ma purtroppo però nella realtà possono anche essere con velocità superiori. Che cosa vuol dire? Che c'è poco da fare? No, allora dipende tutto dal tipo di prova. Ad esempio, quando si fanno le prove sui laboratori di urto frontale, le velocità sono più basse, ma bisogna pensare che la barriera con cui andiamo a scontrarci è una barriera fissa, indeformabile. Mentre nella maggior parte degli incidenti, sia che ci urtiamo contro altre vetture, sia che andiamo a sbattere contro il guardrail, andiamo ad urtare contro strutture che possono anche loro assorbire energia. Quindi 60 km orari contro una barriera fissa indeformabile corrisponde a 200-300 km orari contro barriera deformabile. Quindi ovviamente sono stati pensati questi discorsi specie per le vetture ad alte prestazioni, quindi parliamo di monoposto di Formula 1, dove chiaramente le velocità sono molto più alte, però siamo stati in grado quindi di migliorarci dal punto di vista della sicurezza, quindi creare e modellare cellule di sopravvivenza che siano in grado di sottostare alle enormi carichi. Quindi vediamo dagli incidenti che accoi. Quindi avete visto che dal punto di vista sperimentale una barriera che non si sposta di un millimetro vi dà anche una condizione di laboratorio più semplice e però è del tutto equivalente a uno scontro potente e grave. Avete lavorato, state lavorando su una minicar che sono quel settore dell'automotive un po' particolare, sono quelle macchine che quando sono uscite qualche anno fa erano tipicamente acquistate da coloro che avevano avuto un ritiro di patente e per un anno dovevano guidare con una macchina in città a 50 orari. Adesso però si stanno diffondendo perché effettivamente sono piccole e presentano grandi vantaggi. Però lei ci ha fatto vedere che queste macchine in termini di sicurezza sono un po' molto laterali alla sicurezza che ha chiesto le altre automobili e voi avete credo anche fondato una startup, insomma state invece lavorando su un progetto di auto con caratteristiche di sicurezza elevata. Sì, all'interno del nostro gruppo l'obiettivo era appunto quello di creare una microcar che fosse compatta, elettrica, ma nello stesso tempo sicura su strada. Quindi obiettivo che la maggior parte dei costruttori di microcar attualmente non si pongono, cioè vogliamo creare qualcosa di leggero, qualcosa che vada su strada, che vada in città soprattutto, ma non preveda quelle che sono le normative vigenti in termini di sicurezza. All'interno del nostro gruppo, proprio per andare avanti in questa ricerca, abbiamo creato anche una startup che si occupa di innovazione tecnologica, quindi uno degli obiettivi di questa startup è appunto studiare e lavorare in ambito automotive, anche se abbiamo diversi altri aspetti con cui possiamo lavorare, come l'aspetto di controllo, e uno dei prodotti di punta della nostra startup è quella di aver realizzato una serie di guanti per dare alle persone sordomute la possibilità di poter comunicare. Quindi siamo aperti in ambiti diversi, quindi la matematica, l'informatica si fondono assieme per poter rispondere ad esigenze diverse. Vi facciamo pubblicità perché l'obiettivo di avere anche microcar sicure è importante. Il nome della startup? Limix SRL, fondata grazie alla collaborazione con l'Università di Camerino, nasce 2 anni fa e il nostro obiettivo è quindi quello di migliorarci e di rispondere a quelle che sono le esigenze del mercato. La prossima volta sarà a settembre. Eh sì, il 2 settembre vi aspettiamo puntuali qui su Radio 24. Buona settimana a tutti e a tutte.